Quella rete Bologna Accoglie è una rete che si è costituita a Bologna a luglio del 2018 dalla volontà di singoli cittadini, di gruppi informali e di associazioni che a un certo punto hanno sentito la necessità di fare e condividere azioni, pensieri, ma anche iniziative di contrasto all'impostazione razzista e fascista di questo governo. Ovviamente a partire da che cosa? Dal decreto sicurezza, ma abbiamo lavorato anche ad esempio sul decreto Pillon. Una rete di persone e associazioni che camminano alla pari, diciamo uno di fianco all'altro, ognuno ha le proprie idee, le proprie prerogative, ma che hanno pensato di mettersi insieme per costruire, coinvolgere, fare, ma soprattutto fare azioni di resistenza. Perché anche nella nostra città ci siamo accorti che tante persone non sono più disponibili ad arrendersi a questa deriva che sta attraversando il nostro paese. E quindi, come posso dire, la nascita di una Bologna solidale e di opposizione che è partita appunto con il primo obiettivo di proteggere e di rilanciare e proteggere il tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei diritti. E quindi abbiamo cominciato a lavorare e a pensare su che cosa si poteva fare per contrastare il decreto Salvini, mettendo al centro due obiettivi: la tutela di un percorso di integrazione e di accoglienza che è sempre stato, io lo dico, un fiore all'occhiello nella nostra città, ma al tempo stesso mettere di fianco la tutela di tutti quei lavoratori che in questi anni hanno operato all'interno dell'accoglienza, che con le modifiche che sono introdotte nel decreto Salvini rischiano di vedere intanto in discussione il loro posto di lavoro, ma anche viene messo in discussione la professionalità, la passione e tutto il percorso che loro hanno fatto in questi anni proprio per creare questi percorsi di integrazione che dessero la possibilità ai nuovi cittadini che arrivano nel nostro paese di sentirsi pienamente integrati e pienamente riconosciuti. Sì, da queste frequenze abbiamo spesso ricordato qual è l'effetto perverso, forse anche subdolo, della legge Salvini per sostanzialmente portare all'emergenza e impedire l'integrazione delle persone. Voi avete elaborato un documento però che riguarda quattro punti specifici, diciamo così, che ti chiedo insomma di spiegare. Intanto l'obiettivo che noi abbiamo è quello di creare una rete che vada anche oltre Bologna per fare in modo che tolga, cioè il decreto Salvini dovrebbe essere eliminato, perché poi dentro ha anche tutti degli aspetti che vanno oltre l'immigrazione, no? Il tema del DASPO, il tema delle manifestazioni, insomma un decreto che a me ricorda tanto gli anni bui a partire dal 1919. Noi però a un certo punto che cosa ci siamo trovati a fare? Al fatto che questo decreto c'è, produce degli effetti, e quindi noi abbiamo pensato di come si possa lavorare insieme all'istituzione pubblica, alla città metropolitana, che ha preso posizione, per vedere come può aggirare questo decreto per continuare a tutelare le persone. Allora abbiamo chiesto un incontro al sindaco, tra l'altro la rete Bologna Accoglie è invitata domani alla riunione della conferenza metropolitana, dove lì avremo anche modo di esplicitare appunto quali sono le nostre richieste. Perché noi abbiamo fatto questa operazione? Perché in questo decreto ci stanno due o tre cose che negano di fatto a questi cittadini qualsiasi tipo di possibilità. Noi che cosa chiediamo? Intanto che si trovi la possibilità da parte dell'ente pubblico di concedere la residenza a questi nuovi cittadini che arrivano attraverso un meccanismo che sarà tecnico, che lo discuteremo, che però dia la possibilità o attraverso il domicilio, un domicilio serio però, o attraverso l'istituzione di un apposito albo di residenti, perché se uno non ha la residenza non ha l'accesso a tutta una serie di servizi. Sì, in particolare perché in Italia insomma la possibilità di trovare un lavoro, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sono tanti i diritti connessi alla residenza. Certo, allora il primo è l'iscrizione al Servizio Sanitario, il secondo è quello dell'accesso a tutti i servizi che sono erogati sul territorio, l'impossibilità di accedere a corsi di formazione professionale, di tirocinio, la negazione dell'iscrizione al centro per l'impiego. Qui, dal nostro punto di vista, invece il sindaco, ma il sindaco poi è già stata attivata anche ovviamente la regione, qui loro possono intervenire dicendo no, per queste persone noi dobbiamo trovare il sistema per fare in modo che questi percorsi ci siano. Vi faccio questo esempio perché poi il decreto Salvini concretamente ha già cominciato a produrre effetti. Allora, molti richiedenti asilo trovano ovviamente un lavoro perché dopo 2 mesi possono accedere ad un lavoro. Oggi per lavorare qual è la prima cosa che serve? Avere un conto corrente. Noi abbiamo già avuto tantissimi casi di persone che, pur dicendo la legge che la richiesta di permesso per protezione internazionale vale come un documento di identità, noi abbiamo tutte le banche di Bologna che quando si presenta la persona non gli aprono il conto corrente. Ma se tu non hai un conto corrente, con le normative vigenti il datore di lavoro non può versare lo stipendio e quindi devono rinunciare a questi lavori che sono veri e propri percorsi di integrazione. Questa è l'altra cosa che noi chiederemo al sindaco, di attivarsi con gli istituti bancari che sono presenti nella nostra città, nell'area metropolitana, per dire che quando queste persone arrivano bisogna aprirgli il conto corrente. Stessa cosa l'iscrizione al servizio sanitario. Il sindaco della città metropolitana si deve attivare e la regione si devono attivare con le USL per dire che a fronte di una richiesta di protezione internazionale devono avere il tesserino sanitario, quindi il medico di base, e quindi l'accesso a tutti i servizi sanitari, così come ovviamente tutti i servizi sociali che nel territorio oggi vengono erogati alle persone che hanno residenza, perché purtroppo, pur essendoci tutte le normative che dicono sì, ma state tranquilli che col domicilio non succede niente, invece noi vediamo quello che sta succedendo, così come abbiamo cominciato a vedere delle problematicità sui trasferimenti di residenza. Anche qui faccio un esempio: io sono una richiedente asilo che sta in un centro di accoglienza in un comune del territorio, penso di spostare la residenza in un altro comune perché magari ho trovato un lavoro oppure ho amici o voglio cambiare, come capita ognuno di noi. Quando io provo di fare questa operazione, con la circolare che Salvini ha emanato, la prima che ha fatto dopo aver fatto il decreto, vado in comune, chiedo la residenza pur avendo il posto che mi ospita per darmela e il comune mi dice di no, e anche questo è un grossissimo problema. Ci sono anche, come dire, i minori non accompagnati che sono, esatto, un soggetto debole, insomma. Certo, poi c'è ovviamente il tema dei minori stranieri non accompagnati. Allora, qui che cosa succedeva? Che la legge Zampa aveva introdotto un'ulteriore possibilità nel momento in cui questi minori stranieri, pur avendo magari visto riconosciuto un tipo di permesso, potevano rimanere all'interno del centro avvalendosi di un cosiddetto prosieguo amministrativo, cioè rimanevano all'interno del centro per finire, fino ai 21 anni, per finire magari un percorso più lungo di integrazione, perché erano soggetti magari con più fragilità. Noi, guardando e rileggendo, e noi stiamo ovviamente lavorando con, da un lato con l'avvocato Ronchi, dall'altro con l'avvocatessa Zorzella dell'ASDI, che ovviamente ci aiutano in questo percorso. Lì, quando tu compi i 18 anni hai il permesso, esci dal centro; quando compi i 18 anni e non hai il permesso non esci, ma appena tu hai riconosciuto un permesso esci dal centro. Quindi, anche se non hai un lavoro, non hai fatto dei corsi di formazione, tu ti trovi a 18 anni e mezzo fuori, e quindi anche qui c'è un grosso rischio, c'è proprio un grosso rischio. Guarda, io non parlo del rischio che ha della gente che va in giro, che combina dei casini. Il problema è che se uno è fragile già quando è tutelato, messo fuori diventa molto più fragile ed ovviamente rischia di diventare appetibile per tutto quel pezzo aumento della, tra virgolette, criminalità organizzata, che anche sul nostro territorio è presente. Perché più tu sei fragile, più tu rischi di essere, di entrare in questo circuito, ovviamente, di illegalità, e di regredire molto dal percorso che magari dentro questi centri è stato fatto. Poi l'ultima cosa, la quale noi come Bologna Accoglie, ma guarda, credo qui di poter dire a nome di tutti, tieni conto che dentro questa Bologna Accoglie ormai ci sono tantissime associazioni, ci sono i sindacati, c'è la CGL Emilia Romagna, c'è il tema del CPR. Adesso io non so quello che succederà, perché le prefetture hanno prorogato i bandi, ovviamente, degli appalti. Non sappiamo come saranno i nuovi bandi. La cosa certa è, tutti devono sapere, il sindaco ma anche le prefetture, che noi un altro CPR a Bologna non lo tollereremo, così come io penso che non dovrebbero stare in nessun territorio italiano, perché continuano a essere delle carceri dove vengono negati tutti i diritti. Quindi tutti devono sapere che noi un altro CPR, un altro sì a Bologna, non lo vogliamo. C'è un altro tema che a noi preoccupa, anche se nel documento non è così specificato, che riguarda quello che succederà appunto agli operatori che oggi stanno all'interno delle accoglienze. I nuovi bandi prevedono, nuovi bandi di appalto che saranno fatti, prevedono delle cifre che vanno dai 19 euro per i piccoli centri ai 26 euro per i grandi centri. Anche quelli che vinceranno a 26 euro, pur avendo diminuito drasticamente i servizi che vengono dati ai richiedenti asilo, che saranno solo vitto e alloggio, parliamo dei centri di prima accoglienza, perché nello Strara entreranno solo i titolari di protezione internazionale, queste cifre non basteranno per coprire per questi operatori il salario minimo previsto all'interno dei contratti. Quindi una svalutazione completa delle loro professionalità, dei percorsi professionali che loro hanno fatto, con il rischio che quando Salvini decide un appalto a 19 euro, noi l'abbiamo già visto a Bologna, che cosa è successo quando dentro il CIA arrivò l'OSI? Arrivano cooperative che non si sa da dove vengono, non si sa di che cosa sono portatori, sicuramente non dei valori che conosciamo noi, dove ci saranno delle situazioni disastrose dal punto di vista della tutela degli operatori, dal punto di vista della tutela dei migranti. Quindi anche qui noi vogliamo lanciare un segnale, e glielo lanceremo anche alle prefetture, perché anche loro devono sapere che noi a Bologna non tollereremo che arrivino soggetti che si permettono in questa città di non rispettare per le persone che lavorano nell'accoglienza da un lato i diritti, e dall'altra che pensano che i diritti dei migranti, anche se non ci sono, va bene uguale, ce la caviamo con un piatto di riso e le pulizie se le fanno loro. Ti faccio una domanda un po' più politica, diciamo così. Sì. Per quanto riguarda l'opposizione a questa legge, la legge Salvini, abbiamo visto in giro per l'Italia diversi da parte di sindaci, quelli più barricaderi, diciamo così, come quello di Palermo e di Napoli, e quelli un po' più concilianti che tentavano un dialogo con il governo. A tuo avviso, nello stato delle cose in cui ci troviamo, qual è la posizione migliore da tenere? Io penso che con questo governo il dialogo credo che non ci sia, non c'è, perché, se posso farti una battuta, pensare di andare a discutere con Salvini per modificare il pacchetto sicurezza è come parlare con un sasso da macero. Però credo la posizione che dice io sindaco non applico per niente il decreto Salvini è una bella frase che fa molta presa, ma poi nei fatti è irrealizzabile così com'è, perché c'è tutto un pezzo che intanto riguarda le prefetture, ma soprattutto c'è il tema che le risorse che erano destinate sono sparite dalla legge di stabilità, e non parliamo di 100.000 euro, parliamo di cifre molto alte. Io penso ad esempio che invece la posizione che ha preso il nostro sindaco, così come altri, sia una posizione credibile, così come sono d'accordo con la posizione della regione e di altre regioni che dicono noi facciamo ricorso per incostituzionalità l'utilità di questa normativa, perché bisogna mettere insieme le cose. Io credo che se in tutto il paese riusciamo a mettere in piedi un movimento che parte dal basso e che arriva fino alle istituzioni, dove ci si comincia a muovere per trovare intanto le scappatoie, che non è disobbedienza civile, ma è trovare un'alternativa che dia comunque il riconoscimento di questi diritti, e quindi dove non ci sono 10 sindaci ma cominciano a esserci 100, 200 che si muovono in questa direzione e facciamo dei ricorsi e ci mettiamo tutti insieme, io credo che sia la strada giusta, cioè quella di far riconoscere a questo governo che i 6 milioni che stanno con, no, cosa sono, 64 milioni, quelli che Salvini dice sono con me, non sono veri, però per fare questo bisogna agire con la legge per vedere come aggirarla, perché se io trovo una strumentazione che sia alternativa, che funziona, è un non riconoscimento della legge di fatto, e poi c'è il tema invece di come si troveranno le risorse per dare copertura al pezzo di risorse che non ci sono più, che è un altro pezzo che noi chiediamo nel nostro documento, ma che non lo chiediamo, come posso dire, non lo chiede solo Bologna Accoglie. Se tu a un certo punto decidi che tu metti fuori delle persone che non hanno ricevuto l'asilo, quindi hanno il diniego, tu li butti fuori, e io credo che fra 3-4 mesi anche nella nostra città cominceremo a vedere queste cose, tu ente, tu comune, tu amministrazione pubblica, puoi trovare una soluzione che sia in grado di dare accoglienza a queste persone, quindi le persone non vanno lasciate sole. Il nostro motto è esattamente questo qui: nessuno deve essere lasciato solo e devono camminare di fianco i diritti dei migranti con i diritti delle persone che in questi anni, in una solitudine terribile e spesso anche additati come persone che speculavano sulla pelle dei migranti, invece nel la nostra città hanno fatto dei lavori meravigliosi, e l'iniziativa che faremo con Mimmo Lucano vuole proprio parlare alla città in questa direzione, cioè tu Ariace hai fatto rinascere un paese, oggi la situazione è questa, ma in Italia ci sono tantissime Ariace che sono state fatte in forma diversa, ma noi nella nostra città abbiamo fatto dei percorsi straordinari. Io penso a tutte le donne che ha fatto l'accoglienza delle donne che scappavano dalla tratta, quindi ci sono delle esperienze bellissime che spesso la città non conosce e che quindi noi vogliamo proprio mettere a confronto con l'esperienza di Riace, perché pensiamo anche qui che se tutte queste esperienze continuano a vivere, noi forse riusciamo a dare l'opportunità anche a Mimmo di farsi un po' più forza, perché lui sa che per noi quello è, come posso dire, noi abbiamo sempre guardato Riace come l'esempio che ha dato a noi tutti, soprattutto ai ragazzi che lavorano nelle accoglienze, ai presidenti, ai dirigenti che abbiamo qui sul nostro territorio, che ha funzionato lì, noi non possiamo fare come lì, ma comunque noi dobbiamo fare una cosa analoga, e quindi noi a Bologna l'abbiamo fatta e noi vogliamo continuarla a fare e ovviamente sostenere in pieno l'esperienza di Mimmo Lucano, che deve tornare a vivere, non solo lì, anche altrove, ovviamente. Quando certo. Sarà a Bologna Lucano? Allora, Mimmo Lucano dovrebbe essere a Bologna il 22 e il 23 febbraio, dovrebbe, io dico sempre dovrebbe, perché purtroppo in questo paese succedono sempre delle cose molto strane, quindi in programma è il 22 e il 23 febbraio. Certo, poi ovviamente quando ci avvicineremo a quelle date, ovviamente avremo modo di approfondire anche queste giornate. Certo, queste giornate. E io ti anticipo che in queste giornate, oltre a tutto il tema della cittadinanza, insomma, che adesso quella è più una cosa che riguarda l'istituzione pubblica, l'iniziativa che noi lì vogliamo costruire è proprio quella che abbiamo titolato Bologna Riace, esperienze a confronto, dove anche gli operatori delle cooperative, no delle cooperative ma anche un pezzo del volontariato, hanno la possibilità di confrontarsi con l'esperienza di Riace, ma soprattutto di parlare alla città di quello che in questi anni è stato fatto, e se noi nella nostra città delle grandi problematiche non ne abbiamo mai avute, è anche grazie a questo lavoro.